Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Io sono Gabriele. Oggi ho una puntata particolare. Non so quanti di voi possano aver sentito parlare di queste cose, ma comunque io ho preso ad esempio tanti, tanti film e telefilm, ma ci sono tante cose durante le mie ricerche. Mi sono, diciamo, vedo tutto con altri occhi. E quindi vado a cercare cose che magari prima non ci avevo nemmeno fatto caso. Si possono trovare tanti riferimenti, tante cose nei film. Quindi vi voglio, diciamo, raccontare la storia infinita, però con un altro pensiero, con un altro modo di vedere le cose. Magari tanti prenderanno queste cose come cavolate, però. Decidete voi, insomma, io vi racconto e poi decidete voi. Storia Infinita è nato prima come libro scritto da Michael Ende. Era un ragazzo nato in Germania che studiava l'antroposofia, è la dottrina teofisica elaborata dal filosofo austriaco Steiner 1861-1925, che riconosce all'uomo la capacità di elevarsi alla conoscenza dell'invisibile e di compiere la sua necessaria funzione nell'universo. Questi studi sono la causa di tutti i simbolismi che si possono trovare nella storia infinita. Vorrei far notare che l'adattamento cinematografico del libro non gli è mai piaciuto. Molti sicuramente sono d'accordo con lui e dicono che il libro sia meglio, ma il film è molto più facile da seguire. Quindi, il film inizia con questo ragazzo di nome Bastian. Sicuramente tutti voi, tutti, chiunque l'ha visto, però vi consiglio di riguardarlo dopo aver sentito quello che ho da dire, quello che vi dico sui film, e poi riguardatevi il film, vi renderete conto, in molti si renderanno conto, ci vedranno cose diverse dopo, o comunque ci farete molto più caso a particolari che prima non avevate visto, perché oggi corriamo talmente veloce che non ci fermiamo più a osservare quello che ci accade intorno. Noi stiamo, è come se stessimo correndo su una macchina velocissima e non riusciamo a fermarci. Vogliamo fermarci a, che ne so, a prendere da mangiare, a riposarci, ma non ci riusciamo perché non riusciamo a vedere l'uscita di questa autostrada che abbiamo preso. Insomma, questo ragazzino di nome Bastian, che si sveglia da un sogno e prosegue con lui che racconta i contenuti del sogno a suo padre. Il padre rappresenta la materia, la parte sinistra del cervello. E infatti nel film critica Bastian e gli dice: Sai, Bastian, ormai sei grande. È ora che tu scenda dalle nuvole e impari a tenere i piedi per terra, no? Va bene. Basta fantasticare e affronta la realtà, va bene? Va bene. Bravo. Bastian rappresenta l'immaginazione e la creatività, la parte del cervello destra. È l'evoluzione della parola francese bastir, che significa costruire, ed è definita come un prolungamento di una fortezza per curare i difensori ed allontanare gli assalitori. Durante il film, Bastian è il simbolo della mente coscienziosa, l'osservatore dei fenomeni. Inizialmente nel mondo fisico e dopo in entrambi i mondi, sia nella realtà fisica che nel reame del subconscio. Nel dialogo con il padre di Bastian apprendiamo che la madre è morta e questo influenza molto Bastian. Nell'andare a scuola, Bastian viene fermato per una strada da tre bulli che lo buttano in un cassonetto. Eccolo che arriva. suonato, quanto ci dai oggi? Se non hai soldi, finisci nel bidone della scuola! Su, no! Forza, Pongo! Dentro! Forza! Evviva! Siamo forti! Vedrai che da dentro farà l'uomo! La scelta nell'avere tre bulli può rappresentare un sacco di cose. Può essere la simbologia per i tre vizi che costantemente appestano la mente, come ignoranza, avidità e pensiero collettivo, inteso come il pensare o prendere decisioni come gruppo, in un mondo che scoraggia la creatività o la responsabilità individuale. Dopo essere scappato dai bulli, Bastian finisce in un negozio di libri, dove il vecchio proprietario lo ferma dal prendere un libro speciale. Io volevo... Volevi nasconderti, vero? No, solo che... I videogames sono più avanti. Qui vendiamo solo piccoli oggetti rettangolari, si chiamano libri. In realtà il proprietario vuole che lo prenda, e quando gli dà le spalle il ragazzo se n'è andato con il libro tra le mani. Lascia perdere. Questo libro non è per te. Il vecchio negoziante simboleggia il detentore della saggezza esoterica. Non condividono la conoscenza, tenendola nascosta a tutti, fino a che non c'è qualcuno che la ricerca, che sia puro di cuore o sia pronto per riceverla. Il simbolo è il doppio uroboro, dal greco serpente che mangia la coda. È un simbolo antico presente in molti popoli ed epoche. Rappresenta un drago o un serpente che si morde la coda, formando un cerchio senza inizio né fine. Il doppio uroboro rappresenta l'infinito equilibrio nella natura superiore o inferiore dell'essere. Bastian corre a scuola e salta la lezione di matematica per correre nell'attico e leggere il libro. Saltare la lezione di matematica rappresenta mettere da una parte la parte logica del cervello, informazioni limitate, per far posto alla creatività e infinite possibilità della parte destra del cervello. Leggere nell'attico è la simbologia per l'iniziato che si allontana dal mondo per imparare e progredire nei suoi studi spirituali. Abbiamo visto questa cosa in quasi tutti i profeti delle varie religioni che ci sono in giro per il mondo, da Gesù, Buddha, Maometto, cito anche un film come Batman Begins. Ci possiamo mettere anche qui film di mago della Marvel, Doctor Strange. Trovate Doctor Strange, anche in Doctor Strange lui si isola per elevare la sua spiritualità. Comunque, che testa, insomma. Quando basta iniziare a leggere il libro da questo punto, nel film passiamo continuamente tra la narrativa del libro e la narrativa della vita vera di Bastian. Veniamo introdotti in questo mondo chiamato Fantasia. Fantasia simboleggia il subconscio, rappresenta l'immaginazione, la creatività e il piano astrale. Incontriamo all'inizio alcune creature mitologiche nella foresta tropicale. Il cappellaio matto, che cavalca una lumaca a corsa, che dice di venire dall'ovest, che è la direzione dell'elemento dell'acqua. Il troll e il pipistrello vengono dal sud, la direzione dell'elemento del fuoco. Il gigante di roccia dice di venire dal nord, l'elemento della terra, che è anche il primo che accenna al nemico chiamato il nulla. C'è solo il nulla, e ogni giorno dilaga, dilaga. Il nulla divora tutte le creazioni e si lascia niente alle spalle, e simboleggia il concetto esoterico del male primitivo, che sarebbe il caos, Halli o Aim. Mordi roccia! Quello che lei ha detto succede anche da noi, nell'ovest. Uno strano nulla sta distruggendo... Davvero? Sì. Noi maghetti viviamo nel sud, sì. E lì è lo stesso. Veniamo a conoscenza che questi tre personaggi stanno andando ad est, verso la Torre d'Avorio, dove vive l'imperatrice che governa il regno e l'anima di Fantasia, per cercare aiuto contro il nulla. Sì, anche noi abbiamo lo stesso incarico. E chi se no può salvarci se non l'imperatrice? Chi altro? L'est ha molti significati, tra cui il sole nascente, Dio, Gesù, Horus, luce, creazione, speranza e nascita. L'est è inoltre inteso come l'elemento dell'aria. Ci viene fatto intravedere qualcosa di questa torre d'avorio che è illuminata dalla luce e un fiume che gli scorre vicino, con una rigogliosa foresta a fianco e l'alba come sfondo. In cima alla torre d'avorio ci sono tre cerchi che si toccano, formando un triangolo, e anche questo ha una moltitudine di significati, come la Santa Trinità, le prime tre sfere dell'albero della vita, Kathir Chokma e Banah. Non so se li pronuncio bene, però ci provo. Sono nuovo in questo argomento, quindi diciamo scusatemi se ho qualche difficoltà. I tre supporti della massoneria e il padre, la madre e il figlio. Sopra i tre cerchi c'è una fontana con all'interno un fiore di loto con sopra una rosa, e può essere un riferimento alla Rosa Croce o l'origine della vita. L'imperatrice non è solo una carta dei tarocchi, ma rappresenta anche la fertilità, la femminilità, il donatore e il grembo della vita, ma in fantasia è l'ultimo regnante. Nella torre impariamo che l'eroe di nome Atreyu si mette in viaggio per trovare una cura per la malattia dell'imperatrice. Il giovane ragazzo, vestito simile a un nativo americano e che assomiglia a Bastian, all'inizio viene deriso, poi riesce a guadagnarsi il rispetto e gli viene detto che per avere successo nella missione deve lasciare le armi ai compagni. Non abbiamo istruzioni da darti, eccetto questa. Devi andare solo e privo di qualsiasi arma. Atreyu rappresenta qui l'osservatore cosciente dell'inconscio, del piano astrale e dei sogni. All'inizio separato da Bastian, col significato della mancanza di controllo sui nostri sogni, ma alla fine siamo entrambi quando arriviamo a capire e prendiamo il controllo. La missione di Atreyu simboleggia la nostra ricerca per la saggezza interiore e l'unione con Dio, e deve essere fatto da noi, senza nessuna arma o protezione. Atreyu riceve un doppio Ouroboro come amuleto da portare al collo per guidarlo nel suo viaggio, lo stesso simbolo che nella copertina del libro. Chiunque lo porti parla a nome dell'imperatrice. Sarà lui a guidarti e a proteggerti. Atreyu cavalca il suo cavallo bianco attraverso una moltitudine di scenari e paesaggi che simboleggiano il regno infinito dei sogni e l'immaginazione. A questo punto viene introdotto un altro cattivo, questa volta un essere fisico, Gmork, il lupo malvagio. In quello stesso momento, in un altro luogo di fantasia, una creatura delle tenebre iniziava anch'essa la propria missione. Il lupo vuole uccidere Atreyu, simboleggiando le nostre paure e limitazioni. Atreyu, dopo non essere riuscito a trovare la cura, era rimasta una sola possibilità: trovare Morla, l'essere millenario noto come il più saggio di tutta Fantasia, che aveva la propria dimora nel Monte Guscio, sperduto nelle insidiose paludi della tristezza, dove il cavallo affonda e muore. An ally has been slain. Vardax, ti prego, ti stai lasciando sopraffare della tristezza. Fai uno sforzo, cerca di reagire. Fallo per me, sei mio amico, ti voglio bene. Lasciando Atreyu solo con se stesso. Si imbatte poi in una grande collina, nel bel mezzo della palude, per scoprire che è in realtà una tartaruga e sarebbe l'antico che detiene la conoscenza per la cura. Aiutami, Morla! Lo riconosci questo? Non ci interessa neanche se ci interessa o no, in effetti. La tartaruga è allergica, ragazzi. Hai il raffreddore? No, è solo allergia alla gioventù. Questa scena è la parte della nostra mente, o altri, che sono pigri, pessimisti o deboli, o per il pensiero che intendono la vita come senza significato. La tartaruga gli dice che l'oracolo del sud conosce la cura e che però lui è lontanissimo, così da scoraggiarlo. Troppo lontano. Sì, scordatelo, rinuncia. A questo punto la tartaruga si rimerge e Atreyu continua attraverso la palude della tristezza, che gli risucchia le energie, piano piano risucchiandolo sempre più in profondità. La palude rappresenta la depressione, la tristezza del pericolo di sfiorare questi pensieri, che possono letteralmente fermare l'avanzamento nella vita e la possibilità di portare al suicidio o alla morte. Giusto mentre il ragazzo sta per essere sopraffatto, il lupo malvagio scatta verso di lui, ma istantaneamente il cielo si sgombra e appare Falcor, il Fortuna Drago, che lo riporta in salvo. Falcor è intelligente, speranzoso, coraggioso, moralmente buono e rappresenterebbe l'io superiore. È il matto nei tarocchi. Nei tarocchi sarebbe la carta del matto. Questa scena è il simbolo di quando pensiamo di aver toccato il fondo e non ci sia speranza. E qui il nostro io superiore o la nostra luce interiore risale e ci salva. Alcuni credono che questa scena sia che rappresenti la morte e l'ascesa dell'anima per Atreyu, che si trova guarito e pulito, rannicchiato accanto a Falcor, come se fosse un figlio nelle braccia di suo padre. Atreyu aprì lentamente gli occhi e si trovò in uno strano ambiente. Era pulito. Inoltre Falcor ha portato Atreyu vicinissimo al compimento della sua missione. Falcor o il nostro io superiore non portano Atreyu direttamente al compimento della sua missione. E questo è perché Atreyu, cioè noi, dobbiamo compiere il viaggio da soli e passare il test senza aiuto. Mi hai già fatto fare 10.000 miglia. No, solo 9.891. Qui incontriamo due gnomi che vivono in una caverna. Un uomo e sua moglie. Lei rappresenta l'alchimista. Casa sua è piena di pozioni, libri ed esperimenti alchemici. Gli gnomi sono particolarmente eccitati nel vedere Atreyu e gli spiegano come arrivare all'oracolo del sud, che si trova più avanti, dopo aver superato due prove a un successo. Togliti dalla luce, femmina! Intralci i miei studi scientifici! Mi hai stufato con i tuoi studi scientifici! Ciò di cui lui adesso ha bisogno è una delle mie pozioni! Nella prima prova deve attraversare un valico stretto con a guardia due sfingi d'oro. È la prima delle due porte che devi oltrepassare per raggiungere l'oracolo. Gli occhi delle sfingi restano chiusi finché qualcuno, il quale non ha fiducia in se stesso, cerca di varcarne la soglia. Sì. Le statue possono vedere direttamente attraverso il cuore di chi vuole passare, e ci viene fatto vedere un cavaliere in armatura che cerca di attraversare questa prova, ma viene ucciso mentre passa, dicendoci così simbolicamente che neanche la più resistente delle armature può salvarti se c'è paura. Non c'è armatura che ti ripari. Le sfingi riescono a vedere fin dentro il tuo cuore. Le due sfingi ed il valico sono la rappresentazione della luna nei tarocchi, che sarebbe il passaggio dal mondo fisico verso un reame superiore. Le due statue hanno grandi ali, ognuna con la forma di una luna crescente. Sono inoltre le statue sopra l'arca dell'alleanza, che secondo la Bibbia era una cassa di legno rivestita d'oro e riccamente decorata, la cui costruzione fu ordinata da Dio a Mosè e che costituiva il segno visibile della presenza della divinità. A questo punto Atreyu si avvicina per oltrepassare, si ferma di fronte alle due sfingi. Lo gnomo lo osserva e inizia a dubitare di lui. Anche Atreyu inizia ad avere paura e dubitare di se stesso, soprattutto dopo aver visto lo scheletro del guerriero morto. A questo punto gli occhi delle due sfingi iniziano ad aprirsi, ma Atreyu trova la forza e il coraggio dentro di sé per passare. Corri Atreyu, corri! Corri Atreyu! Corri Forest, corri! Il secondo test, o la seconda prova che Atreyu deve passare, è uno specchio magico che riflette il vero io e può essere spaventoso per chi nega il proprio passato o alcune azioni che hanno commesso. Nell'esoterismo lo specchio magico è conosciuto come l'abitante della soglia ed è l'aspetto peggiore della nostra personalità. Per capire ed accettare questa parte di noi ed andare oltre e creare unità dalla duplicità. Il peggio deve ancora affrontarlo! La porta dello specchio magico! Si troverà faccia a faccia con il proprio io! Attraversando una tempesta di neve, Atreyu trova questo specchio e dopo aver guardato intensamente nel suo riflesso, diventa trasparente e vede Bastian e lo guarda. Durante il film, quello che succede nella realtà di Bastian si ripercuote su Fantasia e viceversa, suggerendo una connessione tra la realtà ed il subconscio. Bastian all'inizio si spaventa ma continua a leggere ed Atreyu attraversa lo specchio, simbolicamente unendosi con Bastian, o in termini esoterici la nostra parte cosciente del mondo reale si unisce o si fonde con la parte cosciente del nostro subconscio. Atreyu si trova di fronte a un altro valico, sempre con due sfingi, come il primo test, con la differenza che sono blu, il sole è sullo sfondo. Qui capisce che è l'oracolo del sud, è la simbologia per i segreti del nostro subconscio, che troviamo unendoci con la nostra parte reale. L'oracolo del sud rivela ad Atreyu che solo un ragazzo umano può dare un nome all'imperatrice e salvarla. Fatto questo, iniziano a sgretolarsi. A questo punto il nulla ha divorato quasi tutta Fantasia. An enemy is unstoppable. Falkor prende Atreyu e attraversano il mare delle possibilità, dove Atreyu casca durante una tempesta, svegliandosi su una spiaggia senza l'amuleto. Nel frattempo Falkor lo sta cercando. Il mare delle possibilità rappresenta Bena o l'albero della vita, la coscienza e le possibilità del tutto. L'isola sarebbe Kether o Chokma nell'albero della vita. L'unico modo per passare attraverso o superare la prova dell'abisso è sciogliere il proprio ego e fondersi con il tutto. Questo può essere fatto senza l'io superiore, ecco perché Falkor è separato da Atreyu. Il nulla ha praticamente divorato tutta Fantasia. Nell'isola Atreyu trova una caverna con dei dipinti alle pareti che lo raffigurano i momenti del passato, presente e futuro, e sta a rappresentare la Hashik Records, cioè il luogo nel reame superiore, come una libreria, di tutti gli eventi, pensieri ed esperienze dalla creazione. Mentre Atreyu guarda i disegni, ne vede uno del lupo che in quel momento sta uscendo da una caverna da dietro di lui. Il lupo lo prende in giro e lo provoca, ma gli fornisce comunque informazioni utili. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi Fantasia non può avere confini, perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Ma perché? Perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. Dopodiché scatta su Atreyu, che lo colpisce uccidendolo. An enemy has been slain. Falkor trova l'amuleto nel mare e salva Atreyu, mentre il nulla distrugge tutto il resto. Si trovano a volare nello spazio, cercando la torre d'avorio, trovandola che fluttua in mezzo alle rovine. tutto e tutti è stato assorbito, sono stati assorbiti dal nulla, tranne l'imperatrice, la Torre d'Avorio, Atreyu e Falco. Incontriamo qui l'imperatrice. È una giovane ragazza con una corona sulla testa e la pelle chiara e candida, simboleggiando l'innocenza e la purezza. Le sue stanze ricordano una camera nuziale dove l'uomo e la donna si uniscono. Falco aspetta all'esterno, simboleggiando che l'io superiore non può aiutarlo da qui in poi. Bastian realizza che conosce il nome dell'imperatrice ed è tentato di gridarlo per salvare Fantasia, ma esita perché suo padre lo ritirava sempre per la sua immaginazione, simboleggiando qui le credenze tradizionali contro gli insegnamenti esoterici. Quando Bastian trova abbastanza coraggio, urla Fiore di Luna, il nuovo nome dell'imperatrice, o in inglese viene chiamata Moonchild. Dopo un momento di oscurità, la camera zooma su di loro, mostrando l'imperatrice e Bastian nell'oscurità. L'imperatrice tiene sul palmo della mano un granello di sabbia luminoso. Questa scena simboleggia l'unione tra l'uomo e una donna che fanno un bambino, rappresenta inoltre l'unione tra il conscio e il subconscio. L'imperatrice dice: in principio è sempre buio, dicendo: perché è così buio? All'inizio è sempre buio. In principio solo un granello di luce è presente e lo dà a Bastian. Che cos'è? Un granello di sabbia. Tutto ciò che è rimasto del mio vasto impero. Che chiede se sia stato tutto stato invano e lei risponde che non lo è stato. E solo attraverso la speranza e questo piccolo granello di sabbia l'universo può essere creato di nuovo. Spiritualmente è il simbolo di Purusha, svegliatosi dal sonno, ricreando la realtà attraverso i suoi ricordi e visioni. Viene chiesto a Bastian di ricostruire Fantasia con la sua mente. La scena dopo vediamo Bastian cavalcare Falcor nel mondo fisico, quello reale, e inseguono i bulli, facendoli finire nel solito assonetto dell'inizio. Bastian è diventato il mago esoterico, il controllore degli elementi, manipolatore della realtà e possessore della volontà che i pensieri e i sogni iniziano nel subconscio per manifestarsi nel mondo fisico. Adesso può fare qualsiasi cosa. La storia infinita è un classico che sia per gli occultisti che la persona qualunque. La simbologia e la storia è così profonda che può essere guardato e riguardato anche senza comprendere la simbologia che porta con sé. E quindi oggi ho provato a raccontare come questo film mostra simbolismi della Kabbalah, misticismo, buddismo, induismo, cristianesimo, massoneria, spiritualità esoterica, occultismo, psicologia, filosofia, morte, immortalità, conscio e subconscio. Solo attraverso l'unione del conscio e subconscio possiamo portare a compimento il nostro destino, diventando maghi maestri, dandoci il potere per comprendere e controllare la realtà oltre che alla nostra strada nella vita. Spero vi sia piaciuta questa puntata. Io non sono religioso, ma più, diciamo, spirituale, e per quello in cui credo, almeno io sono arrivato alla conclusione che non ci può essere il bene senza il male. Quindi grazie a Radio Big World, grazie a voi, e dall'Arcadia è tutto. Ciao, alla prossima. Nel libro il cavallo di Atreyu parla. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Ma questa è un'altra storia. Turn around, look at what you see.